La vecchia cuoca Crescenza e la donna che uccise il suo bambino. Alla medesima epoca di Barbara, ci fu anche un'altra apparizione. Mentre il 1 febbraio 1923 mi trovano con la cuoca in dispensa, ecco improvvisamente due donne in piedi fra noi. In una io riconobbi subito la nostra cuoca Crescenza che era rimasta da noi 42 anni ed era morta nel 1888. Vicino a lei una sconosciuta, che aveva un aspetto per niente simpatico. Crescenza aveva un sembiante molto bello, esattamente come da viva, molto simpatica. Due giorni dopo io lei incontrai di sotto nel corridoio. Ma poiché c'era qualcuno con me non potei parlare con loro. 24 febbraio. Mi sveglio alle 4, accendo la luce ed eccola con la sconosciuta accanto al mio letto. Io dissi, cara Crescenza, da dove vieni? Essa, dallo spazio. Io, come mi hai trovata? Allora essa fece un movimento per aria con la mano. Io dico, non venire più da me. Ti prometto che sarà pregato per te. Sia lodato Gesù Cristo. Lei se ne andò insieme pure la sconosciuta. 28 febbraio alle 4:30 viene la sconosciuta, paurosa, asterisco, lei si ferma più di 10 minuti. Io le do acqua santa, prego, lei non si muove, solo mi guarda adirata. Io ho molta paura, non so infatti perché non risponda una parola. Finalmente se ne va. È vestita poveramente, ha un fazzoletto da testa e un grembiule come una donna da lavoro, non mi è simpatica. Essa mi fa pensare alla donna che vidi in A, che poi descriverò più tardi. Io ho paura di quella espressione da donna depravata. Non lo si può esprimere in altro modo. Asterisco nota. Il lettore troverà a lungo tutto il diario, come sono reali le parole religiose, secondo peccato è orrendo, la virtù è bella. La vista della bruttezza dell'uomo in peccato ci viene incontro in tutte le apparizioni. Ci deve far pensare, quale tipo di esistenza presenti la vita modema. Vita programmata di peccato e l'orrore programmato dalla pittura e dalla musica moderna si favoriscono e si sostengono l'una l'altra. 3 marzo. Sono le 2 di notte. Mi sveglio con quella sensazione che so che cosa mi aspetta e sono così vile, che non accendo subito la luce, ma poiché il Signore Iddio mi dà forza, accendo. Ed ecco quel viso ripugnante quasi curvo su di me. Ma poi essa si allontana. Io, in nome di Gesù, io ti ordino di rispondermi, perché vai intorno. Lei, io ho tolto di mezzo il mio bambino. Come ti chiami? Lei, Margherita. Sarà fatta celebrare una santa messa per te ed io non ti dimenticherò. Non devi più venire. Poi io prego con lei ed essa scompare. Fu una cosa molto dura da sopportare, ma sia come Dio vuole. Di giorno sopporterei più volentieri se queste dovessero venire.